forse anche educata, per un buon riposo, e se dire questo qua, ma è domenica, sta facendo affari suoi, non lo chiamo neanche. Bene, poi persone che magari non le senti, ti chiamano, non le senti, ti chiamano solo per preventivi, ma chiamano il pasticcione per 10 euro in meno, anzi per 10 euro in meno, ma è per 20-30 euro in meno. E vabbè, comunque, di questa cosa l'abbiamo già parlato la volta scorsa, mi sembra che l'idea di tutti e due è uguale, diciamo, la pensiamo allo stesso modo. Va bene, dai Gianni, riprendi. Uno preferisce pagare 30 euro in più perché la roba li ha ripintata, non ha pezzi, come è successo a me. Io ho ordinato un tavolino da Continente, di quelli bassi per la sala, e è venuto l'autotrasportatore e non mi hanno mai fatto di queste domande. È venuto con un camion grosso, ha preso il carrello e ha preso questo picco che praticamente era tutto in legno, la cassa in legno. Ho detto: che cosa c'è dentro questa roba? Io lì già ho avuto un po' il sospetto e gli ho detto: un tavolino col vetro. Ah, va bene, dai, poi firmo la bolla. Ascolti, le mettiamo con riserva, non si sa mai che in caso abbia qualche difetto che dovrebbe cambiare. Apro questo coso, quando se n'è andato, cazzo, c'era tutto il tavolino a pizzi, ma non il tavolino solo, il vetro tutto rotto, telefonato alla ditta e mi ha detto: cosa vuole fare? Ci deve rifare il plico com'era, in legno, e rispedito, oppure l'abbiamo imballato bene. Ho detto: guardi, sicuramente è caduto l'autotrasportatore, perché a me un autotrasportatore non mi ha mai chiesto cosa c'è dentro, questo me l'ha chiesto, sicuramente ha sentito il rumore del vetro, come gli è caduto, e praticamente mi ha detto: me lo rispedisca. Sai cosa ho fatto, capì? L'ho ricomposto io, mi ho comprato il vetro, 20 euro, si rabbia il lutto. Sì, Gianni, fai prima. A me è capitato che mi volevano fare una specie di, diciamo, volevano gettare colpe su di me, con una stufa a pellet, sicuramente l'hanno inforcata col muletto, mi segui? Sicuramente gli è scappata la forca del muletto, visto le forche del muletto in basso vanno, però magari quando non sono centrate bene, c'è il muletto che non è in piano lavorando. In pratica, cosa è successo? Hanno rotto la tuffa, hanno inforcato la tuffa, l'hanno rotta, tra l'altro facendo un po' semplice, l'hanno inforcata e hanno rifatto l'imballo alla tuffa e hanno chiamato a me per portargliela. Però non sono stati furbi, perché c'era l'imballo, in genere le tuffe quando le trasporti, lui usando l'imballo che arriva dal Continente, sono assicurate e hanno la cassa fatta in legno, hanno la cassa quando la prendi, diciamo, da rivenditori seri, se la prendi la Brico, come arriva in cartone, arriva come ti arriva. Però siccome era un fornitore serio, cosa è successo? L'hanno caricata, quando hanno chiamato l'altro trasportatore per portarla, l'ha rotta, l'hanno messa a terra, hanno rifatto la cassa, però la cassa, io l'ho vista, era, non ha, l'involucro infocato era a 10 metri. Quando io siccome sono molto attento in queste cose, ho detto, caspita, cosa avete inforcato, ma che cosa, capito, magari era un bastonazzo che ha fatto questa cosa, gli ho detto, e mi l'altra volta, ho detto: fa una cosa, fa la gentilezza, perché la misura è quasi uguale a questa tuffa, aprimi la tuffa. Ma no, ma apri la tuffa, te non te ne sto portando, Gianni, ci credi che c'era la tuffa inforcata dentro la ceramica? Avrebbero dato la colpa a te, avrebbero detto eri tu. E lo so, si può fare lo sbaglio. Io una volta è venuto quello che ci portava l'acqua a San Giorgio, e mi ha detto devi aspettare un attimo perché stiamo scaricando un altro camion, prima scarichiamo quello, poi scarichiamo a te. No, che c'ho fretta, me lo dai al muletto, siccome noi ne avevamo due, ho detto prendilo, tanto so che sapevo che lo sapeva portare. ha sbagliato una manovra e si è entrato dritto alla cabina di Lugano. Tutti, guarda, tutti sto andando tutto per scontato, Allora, se io il giorno avrei caricato quella tuffa, e l'avrei scartata, l'avrei portata, diciamo, al cliente che la stava comprando, l'avrebbe scartata, mi sarebbe toccato pagargli la tuffa già. Ci tieni, da quello che sto dicendo io. C'è gente che fa la furba, capito, vuole tappare. Quello lì non sapeva che tavolino, diciamo che praticamente, già sai come sono composti i tavolini che sono incastrati, non li mettono manco colle, roba del genere, si è aperto ed è caduto, il metro si è rotto, il tavolino io gli ho messo un po' di vino a ville, di quella colla per falegname, l'ho rincollato, l'ho fatto meglio di come era dalla fabbrica, perché colla non ce n'era, e l'ho rincollato bene tutto quanto, il tavolino non si vede nulla adesso. Sono andato dal vetraio, mi ha preso 20 euro per il vetro, gli ho rimesso il vetro e fatto il gioco, il tavolino è a posto. Sì, a volte guarda, conviene risolversela così. Un'altra volta meno male che c'era il proprietario, sono andato a prendere delle soglie in marmo, bugia, non aveva trachite, erano due soglie, erano due metri per 60 e altri 5 centimetri. E niente, ho sbagliato la manovra con i muletti che ci sono, diciamo, nei cantieri lì, e l'ho un po' lesionata. Il padrone ha fatto no, diceva il proprietario della soglia, ha fatto no, fermo, questa soglia non la voglio, perché è imbarcato e va a aspettare. No, tranquillo, non lo fa. No, va a aspettare. No, ma guarda che lui l'ha fatto, ascolta. Se questa soglia qua, se prendo un avvallamento, no? Si spezza. Non scommettere che si spezza. No, vabbè, facciamo una cosa, la scarichiamo e vabbè, la scarichi e... io non te la traio, perché non la trasporto questa? Infatti il proprietario ha detto no, io questa soglia non la voglio, perché se dico proprio che è marcato, ha fatto, se dico proprio quella, prima detto che fa il marmo. E invece il marmo l'ho portato da Umbria integro, perché l'ho incastrato, visto le pedane che c'hanno tra una travellata, l'ho incastrato lì e l'ho legato bene di modo che stesse dritto, e tutto vedo me l'ho legato e cose, c'avevo quelle cinghie, quelle che tirano, l'ho legato così, arrivato a Plattamona, perché dovevo andare lì per i gradini che c'erano lì dove c'è il tabacchino, e che sto scaricando, l'ha dato un colpo il coso, il muratore ne ha spaccato uno, cazzo, ho detto adesso va a Gigli, io l'ho portato integro, ma no, già abbiamo la colla, già non si vede nulla. Per fortuna era la fila dell'angolo che l'ha spaccato e è riuscito a sistemarlo bene, dai, si vedeva poco, proprio ci devo mettere l'occhio sopra. Però intanto io sono stato attento e loro scaricandolo, un colpettino gli ha dato, si spacca su. Sì, no, questa è la porta di là, tra chi erano delle soglie per delle porte, dai. Una era la soglia per questa porta scorrevole in legno, dai, era proprio appena per una bella villa. Siamo andati vicino a Udi a prenderle. Niente, io ho la rastrelliera dove metto il top, però questa qua, cioè se metterlo questa soglia in quella rastrelliera me l'aspettavo in due, perché una soglia mi sembra che pesava intorno ai 350-400 kg a soglia erano, non erano leggerissime, è per quello che ha, pensate, ripeto, a 2 metri, anzi a 2,10 per 60 per 5 cm di spessore, pieno, grande era, pesante, l'hanno portata su col muletto e con le cinghie, come l'hanno imbragata e ha preso l'avvallamento del muletto perché era un po' invisibile, ha fatto questa specie di cosa, meno male che non si è aspettata, mi si è aspettata sul furgone, perché altrimenti mi avrebbe spaccato la cassa anche. E un'altra volta invece qua quando trasportavamo gli animali vivi per portare a macellare, che c'era ancora portato io a Porto Torres, e andavo, prendevo gli animali vivi col camion e poi andavo col camion frigorifero e quando li ammazzavano li portavo già macellati. E sono andato a prendere questo toro con l'M40. Ma è tutta un'incurrata e si è entrato in gabbia. Vai. Te lo giuro, ha praticamente bucato, a lui è uscito il sangue dal corpo, ma ha bucato proprio il separì che c'è, capito? Il separì che c'è, l'ha bucato. Poi no, per il Fortarida, va. Quegli animali sono paurosi, quegli animali. Meno male non ti ha preso a te, già. I puri, mica ce ne vuole, 1040 aveva la cabina grossa. Ehi, ti sto dicendo che praticamente c'ha gli anelli dentro e noi l'abbiamo tirato sino all'anello, non lo so come ha fatto, è riuscito a slegarsi già per caricarlo questo toro, avevamo avuto, non dico poco, ma gli hanno fatto anche le scosse elettriche per farlo salire, tutti di quarzo, c'hanno una specie di cosa che gli dà la scossa, lui come se te la scossa la sale, capito? Perché se lo immaginano deve essere, se lo immagina, poi arrivate al mattatuio, c'era un macellaio nostro che non valeva una cicca, praticamente lo doveva scaricare, mi ha detto scaricalo tu, già no, io non ne scarico, se tu il macellaio te lo scarichi tu, a chi è adesso lo doveva caricare a me. E a un certo punto stava scendendo il toro, si è avuto a si stava ribellando, insomma, lui l'ha mollato, io ho preso la corda, l'ho legata a un palo, cazzo, e ho tirato, se no guarda, il giorno finiva male. Si è trovata dalla vecchia, poi sì, loro comunque lo capiscono, è una maledizione, guarda che l'animale lo capisce, il maiale rimane 2 o 3 giorni prima perché lo sa, che non mangia, lo sanno, è un casotto, perché hanno... Cioè anche per il coso di loro, gli dai col punciotto, gli spari alla fronte, non soffre. Ma sai che morte atroce che fanno quando li pungono alla gola? Io già lo so, perché li sentivo gridare. Praticamente li ho visti tutti i colori al mattatuio, è brutto a dirlo, ma perché mi piacciono anche gli animali, è brutto dirlo, dai. Li ho visto come li ammazzavano, gli anelli li appendono, tipo ho visto il coso delle cartoline che lo fai girare, come sono le cartoline per scegliere, così c'è una cosa così, li appendono, li lo buceto e ancora quando sono vivi li ricavano tutta la bitti. Sì, già. La loca quando vai a macellarla gliene scende la lacrima, io l'ho visto, wow, è assurdo, la loca gliene scende la lacrima. Chico, chi è avanti? Tu. fammi dire cosa, gai, è spagnolo. Ciao tu, buonasera, avanti Gabi, lo senti a... Ciao Antonio, buonasera, no, non l'ho sentito, ma dimmi una cosa Gianni, Antonio può passare in FM, fammi la fonte se mi sente lui. Antonio, in FM puoi andare. Allora passiamo tutti in FM, vediamo un pochettino se ti ascolta, capito? Dai. Ok. Sei 9 giri. sente roba sfumata. Anche io. Ehi. Proviamo in AM, in AM. Io sono in AM. E non era proprio in FM, scusa, tu vai in AM. No, non mi sento questa parte da me. È vero, è vero. La radio te la abbassa, invece che alzatela te la vede chiusa lì, vero Gabi? Ah, tu non lo senti, è vero. No, non so, era... aspetta che mi devo riportare il battito della radio tranquillo adesso, con i picchi giusti. Ora, devo riportarmi la radio già, com'era, perché l'avevo dovuto alzare, perché in FM... altrimenti non pompa. No, non lo sento io, non lo sentivo io ad Antonio, cioè sentivo che c'era qualcuno ma non capivo quello che mi stava dicendo, capito? E vabbè Antonio, quando la metterà sul tetto già lo senti, perché la zona non è male quella di Antonio. Sì, no, ma ci credo, però purtroppo l'antenna sul tetto e... Hola, sì, aspetta, che qua bisogna regolare bene, perché altrimenti mi da picchi negativo. Regola, tranquillo. Vado un attimino sul 12 a farla, ci metto un secondo. Via. Riprende. Oggi mi manca una medaglia andata. Locali ancora sei andato? Sì, qualche volta adesso non si può andare già andato. Cosa devi cantare al matrimonio? Ma in chiesa? No. Era Oca da più fare. Ah? Vediamo, devo andare al compito adesso, farmi la cantare, ma non credo che lo farete. Ma c'hai una scaletta? Ah, ecco, ho capito. Vabbè, tanto cantano loro. Tu cosa fai? Canti lo stesso? Ma è cosa? Se sei un carolino avete tanto cantato, non hanno già ci sono caranocchisti che cantano anche bene, però devi trovare la gente che canta naturalmente. Vabbè, se mi hanno chiesto quello vuol dire che mi sta cantando. Sì, non è detto, lo fanno per divertirsi, non per esibirsi. Uno lo fa per divertirsi, i matrimoni, queste cose qua. Vabbè, devi fare bella figura, certo che devi fare bella figura. Anche Manuela. Alza un vei, tu mi capito, canta un vei, alza. benissimo ed è un beato, dammi come tua vita. Ma appunto, dovrei andare, diciamo che si è sentita una mafia, così è. Sì, esatto. E poi ne fa anche in inglese, ne fa diverse, ma è brava. Vabbè, ha cantato anche alle feste, Emanuela è cantata sul palco, la chiamavano per cantare. Vabbè, quando lavorava a Teligi era la cantante, la prima cantante, quella che accompagnava le modelle quando sfilavano, e lui cantava le canzoni e le modelle sfilavano. Pure io me la sto facendo un attimo la canzone di Polina, là, vediamo le tante, non so se è andata la sua carta, la fa. E anche tu, bisogna educarlo la voce. Io canto lo stesso, ma più a casa, che perché io mi vergogno un po' a cantare fuori. Sai quante volte ho avuto l'occasione di cantare? Canta che sai cantare, perché non canti gli amici, capito? E un po' mi vergogno, poi alla fine già qualche canzone l'ho cantata. Io la conosco anche, certo che la conosco. Vabbè, ma quelli bisogna avere una voce lirica per cantarle, per farle bene. Gabi? Sì, mi sto ascoltando. Canta Gianni, canta. Beato chi può cantare, per certo non posso cantare io con questa voce che mi ritrovo, che mi faccio tutto. Interessante non cantare in questura. Bravo, in tribunale. Però bisogna sempre più, bisogna cantare. C'era... io fuori dal mio circolo avevo questa, da me che la domenica mezzogiorno, cantavano, c'erano i signori che cantavano, diciamo, le canzoni dei tempi, e avevo fatto fare un cartello e c'era scritto dove senti cantare fermati, la gente sento, e allora c'era scritto dove senti cantare fermati, gli uomini senza cuore non conoscono armonia. Bella quella frase. Comunque io canto su Starmaker, non so se la conosci come app. Metti Starmaker e ti metti le cuffie e ti senti anche in cuffia cantando. E poi partecipi, ci sono le gare, ci sono tutti i contest. Non l'ho mai sentita già questa applicazione. Non l'ho mai sentita. Adesso dopo la cerco e vedo un po' se riesco a cantare anche io. Spacco i bicchieri. Io mi diverto, mi passo il tempo così. Partecipo, poi ti mandano le menzioni, ti invitano a cantare in duetto, quando ti conoscono ti invitano a cantare con loro. Ci sono proprio gente che canta ben bene, ti invitano, fai duetti, capito? Sono cose belle, si chiama Star Maker con la K, Maker. Star Maker, sì, dopo la cerco. Oh già, ascolta, ma dimmi una cosa, ma il microfono così sta saturando, scusami se ti faccio questa domanda, perché l'ho toccato poco fa, sta saturando regolato così, perché sono l'11.80 e sto strappando. No, negativo, capito. È positivo, allora lo lasciamo così, dai. Ha molta amplificazione, così. Sono a una cinquantina, neanche 40 centimetri, perché per entrare in FM l'ho toccato. Sì, ci sono tu li dovresti prendere dal telefono e dovresti uscire col cavetto e mettertelo magari su una scheda audio che ti può dare anche gli effetti, capito? E non so se questa applicazione te lo dà l'effetto, completa gli effetti. Sì, sì, c'ha tutto. Puoi regolare la voce, puoi regolare il volume della voce, puoi regolare i volumi della musica, certi effetti. Diciamo limitati, ma ce li ha. Positivo, ma anche le basi? Sì, sì, c'ha praticamente la musica, senti e leggi le parole, c'è come il karaoke, no? Poi ti senti in cuffia, tu quando canti ti senti in cuffia, tu metti le cuffie nel telefono e ti senti in cuffia mentre canti. Sì, ma la mia domanda è, l'applicazione è già fornita di basi e tu gli dai le basi esternamente? Per esempio tu hai un programma dove hai le tue basi oppure dalla memoria del telefono tu hai scaricato già delle basi e le applichi esternamente oppure lei ti ha già tutte le basi che c'è? Allora, se tu vuoi fare una canzone per dire, guarda, ti posso dire una canzone, che cazzo le posso dire? Io camminerò, per dire, lo scrivi e ti mette la canzone e poi c'è scritto canta vicino, tu clicchi su canta e comincia la musica, capito? Ah, ho capito, quindi è già fornita di base musicale. È buono, non la conoscevo, dopo me la installo, perché capita che viene qualcuno qua, a volte abbiamo fatto per esempio, sono venute delle colleghe della mia compagna qua e noi ci mettiamo, io ho tutto, ho strumentazione, io posso fare strumentazione di tutti i tipi, non ho delle basi di karaoke, cioè ma è proprio il colmo, è proprio il colmo. Dopo me ne stallo, Star Market. Via. Avanti, anche un se mi sono male la cosa di posto è tanto che un po' di pangarino con tutto un pochettino le canzoni sono serate così di karaoke, c'è tutta la strumentazione, porta la strumentazione e fa le serate. Ah, positivo. Bene. Guarda, il karaoke si è saputo fare, è anche una bella cosa. L'unica cosa che non sopporto io del karaoke, la verità, l'unica cosa che non sopporto del karaoke sono due. Quando si mettono due locali, a Porto Torre succede questo, che ci sono due bar in piazza, no, al corso, che ci sono 6-7 bar e tutti i 6-7 bar si mettono a fare il karaoke. Allora, tutti fanno gara di volume, primis. Allora, quando tu passi, da dove c'è la consolata, fino alla fine del cristallo, di lì ti devi mettere i tappini delle orecchie, perché il professionista che sa fare il karaoke tiene i volumi bassi e rivolge l'altoparlante verso il locale in modo che diciamo, la musica ne usufruisca solo chi mette una cosa, e fa anche piacere sentire delle belle canzoni seduto al bar e ti bevi un drink con la tua compagna eccetera. E poi non sopporto quelli che si mettono a fare canzoni che non ce la fa, che non arrivano, che proprio non li si addicono proprio per la sua voce. Allora, ho sentito un giorno fare a questa tipa, la classica canzone del karaoke, Vivo per lei, aveva la voce più rauca della mia, era uno schianto, un muretto a secco, proprio era bruttissimo da sentire, antiestetica, ha fatto andare via anche dei clienti. Quella io la faccio bene, con mia figlia la faccio molto bene. Sì Gianni, ho capito, però la fai bene, ci credo, ma quando io ho gestore che vedo gente andando via perché questa tipa mi sta facendo un danno pazzesco, io la vedo, cosa fa, cosa? Metti il microfono a posto e fatti 5 minuti di vergogna su sto tavolo. È una musa che ti invita. Antonio, tu cosa fai? Gli sbatti il microfono a testa quando cantano male? E io l'ho fatto molte volte a karaoke, quindi. Diciamo che ho partecipato a che contest e tutto qua. E ho avuto anche primi su Starbucker, poi tu vedrai come funziona, capito? Allora, se tu vuoi cantare solo, metti, parti, c'è una specie di finestrella in alto sulla sinistra, e lì scegli la canzone che vuoi, ci sono già le canzoni impostate, e scegli la canzone che ti piace, la metti, a me mi ha scritto, hai una bellissima voce, eccetera, eccetera, va in automatico, capito questa cosa qua, tu scegli la canzone e ti fa la canzone che vuoi, e poi ti mettono i commenti. Ci sono dei cantanti che cantano nei locali, capito? E ti mettono i commenti, bravo, oppure a me mi mettono, qualche volta mi mettono che c'ho la voce metallica, ma che si sente un suono metallico, ma la mia voce è quella, non l'ho compresa ancora. Beh sì, poi anche dipende. Poi dicono c'è la voce metallica, ma secondo voi sto facendo un'applicazione, non ho microfoni, non ho cose, non ho un microfono adeguato, ma come luce? Non lo so. Scusate, è una cosa di divertimento, non sei neanche. Tu devi dire, ascolta, guarda che se mi bevo un litro e mezzo di vino forse potrei anche andare a Sanremo, perché non lo dici? Io d'altronde canto con le cuffie e col microfono, no? Perché ci vogliono quelle, ci vogliono le cuffie col microfono, ma inizialmente avevo quelle comprate dai cinesi, ti puoi immaginare, poi ho comprato quelle un po' più professionali, ma no, che non sono proprio al top, dai. Invece quelle che ho per ascoltare al baracchino sono delle Sennheiser e quelle sono abbastanza buone. Allora ti dico un segreto, se lo accetti. Accetti? Beh, io accetto sempre tutto, Gabi, cioè, c'è sempre da imparare la vita. Allora, tu per sentire bene le tue tonalità devi usare le cuffie auricolari, una sì e una no. Una sì e una no, Gianni, perché se tu ti senti solo in cuffia, non senti veramente la realtà della tua voce. Quindi ti fai una prova di udito col telefono, nei telefoni c'è l'applicazione della prova dell'udito, e vedi un po' con quale orecchio ricevi meglio le onde, diciamo la ricezione dell'orecchio, sia destro o sinistro. Nell'orecchio in cui ricevi meglio senti meglio, di lì devi prendere, devi lasciarlo libero e usi la cuffia. In genere si usa la cuffia, l'in-ear, si chiama in-ear, nell'orecchio destro. In genere si usa nell'orecchio destro. se tu guardi, i cantanti hanno una specie di cuffiette e non ce l'hanno da tutte e due le parti, ce l'hanno sulla destra o sulla sinistra, dipende, è una cosa, se vuoi essere pignolo ti cerchi, diciamo, l'orecchio migliore, però lo metto a destra, lo metto a sinistra, va meglio, perché senti la tua voce al naturale cantando, no? E tu ti devi mettere nella cuffia, non ti devi mettere la tua voce, ti devi mettere la traccia audio e un pochino della tua voce, mi segui? Traccia audio e un po' della tua voce in base al volume della traccia audio. Sì, ti ho seguito, provare a farlo, dai, c'è sempre da imparare, poi tu te ne intendi di più di queste cose, però io non lo facevo professionalmente, lo faccio per divertirmi e quindi su questo tipo di cosa. Diciamo che a me mi è sempre piaciuto cantare, mia figlia ha preso da me, è andata anche a scuola di canto, ha lavorato con Teligi quando esisteva, accompagnava le modelle che sfilavano sul palco, eccetera eccetera, c'erano anche di Porto Torres, c'era il Martin per dire di Porto Torres, e niente, e poi Teligi ha chiuso, cosa? Lì vabbè, si è laureata, è partita pure a Bologna, quindi sì, ma le serate le fa, ogni tanto fa qualche serata anche a Bologna, capito? Però andava per i paesi a cantare sul palco, eccetera, quindi c'era anche quello che si assomiglia molto a Celentano, ma proprio quasi uguale, anche di viso, che faceva Celentano, che è venuto da Continente, non è di qua, e si è complimentato con mia figlia, ha detto sei bravissimo. Sì, Gianni, lo conosco. Il gruppo si chiama Il Re degli Ignoranti, io gli ho fatto da fonico a quel gruppo. A Porto Torres sono venuti, alla festa dei muratori sono venuti, ed erano loro Il Re degli Ignoranti. Sono molto, molto, si chiama Alfredo, vabbè, adesso ci può mettere all'improvviso, non mi ricordo il nome, il cognome, come lui si chiama Alfredo. Prova questa cosa che ti ho detto, delle cuffiette, anche con il classico auricolare del telefono, per me una sì e una no. E ti metti un po' di tremiti, tanto sicuramente se mi stai dicendo che l'applicazione è buona, ti metti la tua voce, oppure metti parti dalla traccia audio, e metti la tua voce in base a una, senti bene, tu immaginati che la tua voce deve superare di pochi dB la traccia audio, proprio deve dominare un po' sulla traccia audio, e poi vedrai che ti faranno i complimenti ancora di più, perché fai, in pratica hai un ritorno di come ti potresti sentire di lì all'ascolto tra di loro, mi segui? Ciao. Noi ne abbiamo qua CB che fanno anche musica, c'è, come si chiama, Volpe che è bravo, fa le serate, suona, canta, vabbè, c'è anche Stefano Principe, però lui adesso il Continente non è qua, che fa serate eccetera eccetera, e ce ne sono musicisti qua. Positivo. Ma ho visto anche Roberto Quadrato è molto appassionato di queste cose. Gli piace molto questa, gli piace molto l'audio professionale, l'audio, diciamo, wifi. È un mondo che se lo prendi ti prende, ci sono molte nozioni, il mondo dell'audio ha le stesse nozioni più o meno, diciamo, se ti piace la parte teorica, pure la parte pratica è un'altra cosa, ma la parte teorica di riconoscere la legge di Ohm, di riconoscere le frequenze, di riconoscere, perché le frequenze le riconoscere per abilitare i microfoni del radio. Quindi, è un po' un miscuglio tra, diciamo, tra il cantare e il radio amatoriale. Mi segui, riconoscere antenne, perché allo stesso radio i microfoni hanno le loro antenne con le loro frequenze, devi conoscere lunghezze dei cavi per ci sono tante cose. Ah, Roberto Quadrato ha avuto al suo tempo una radio privata, quindi gli è sempre piaciuta questa roba qua. Gli piace la musica, gli piace, oltretutto c'è anche la passione della ricezione televisiva, praticamente c'è una parabola enorme, riceve un sacco di stazioni, capito? Sì. E io accanto. Va bene Gianni, io adesso devo, momentaneamente devo chiudere perché è quasi pronta la cena. Dopo se vuoi, dopo cena, se vuoi entrare, la radio mia è sul 27075, anche verso le 9 o 1/4, se ti fa piacere entrare, se hai voglia, io sono qua. Momentaneamente vi saluto, vi auguro buona cena, buon proseguo di serata, dai, Lavino fa un po' di pausa perché va a mangiare un po' di pappa, va bene? Ciao Gianni, ciao Antonio e a tutti quelli che sono all'ascolto, buona serata. Ciao Gabriele, buona carica, dai, adesso vediamo, dai. Non lo so se mi guarda Maria De Filippo, ma non so se ne ho voglia, dai, vediamo, penso di entrare, dai. Adesso mangio, a me non me ne cucina nessuno, tu c'hai la donna che te l'ha cucinata, adesso devo andare a cucinare io. No Gianni, io ti dico una cosa, che le mie due donne sono a passeggio, sono andate a comprare il vestitino del carnevale, quindi io diciamo che ho già cucinato sia per il pranzo che per la cena, quindi adesso metto a riscaldare un po' di cosa, però è pronto, dai, gli faccio trovare la roba pronta. Sono a fare spese per la piccola nanetta. Vabbè dai, no, io mi faccio, ho voglia di farmi due uova fritte con le cipolle, che mi piacciono bene. Oppure c'ho anche, posso farmi Wurster col ketchup, lo uso buono. Gianni, non so cosa fai, allora prendi Wurster quelli grandi, no? Prendi Wurster quelli grandi, li tagli, puoi lasciarli un pezzo intero da una parte all'altra, li tagli a metà, li apri, fai tipo un coso, un'apertura, e gli metti uno stecchino e dentro li butti l'uovo. Diventa un occhio, ma sono buoni, io a volte li faccio, sono ben buoni così, però le viste a me non mi piacciono, io le mangio una, a loro gli piacciono le mangiano, però sono contrario a questa cosa. No, io stanotte ho della classica fatta al suo e fatta in forno, infatti mangerò, penso, la pasta al sugo, perché mangio le patate, un pezzo di formaggio, un pezzo di salsiccia e basta, abbiamo cenato, va bene, ciao, buonasera a tutti. Ciao Gabri, vabbè, la sera ci si arrangia sempre così, io è difficile che cucino se sono solo, e adesso è da lunedì c'è lei, quindi riprendiamo tutta la storia. ciao Gabri. CQ10, stazione 10, attento canale 10. Ciao Roberto, buonasera. Prova radio. Radio check, prova. Cabina, ci sei. Gianni, buonasera. Gianni, buonasera. Cicu 10, c'è qualcuno su 10? Attento 10. Cicu canale 10, c'è qualcuno? Ciao Roberto, buonasera. Sto usando un'altra radio, come mi ascolti, Gabi? Ti ascolto non male, non male, un po' cupo, però un po' fatto all'altro, aspetta che lo apporta, che qua stiamo fanno madre e figlia. Un po' cupo, però ti ascolto bene. Aspetta che cambio radio un attimino, dammi un attimino. Sì, va tranquillo. Questa è la mia solita. Cos'è? Il K44, vero? K è positivo. Quella è... Quello è il boss. Quello è il boss. Mi sto mandando un messaggino. Aspetta. Non mi ha mandato Robert coso in privato? Ma no, adesso sono dimenticato, metto 5 minuti e te lo mando, dai, così, io non lo fare, come ho chiuso il contratto, dopo glielo mando, poi ho acceso un attimo la televisione e mi è passato di mente, in giornata proprio, non ci ho pensato. Sì, no, tranquillo, lo sai che stamattina ho trovato un negozio a Porto Torres, che ha l'alluminio, il tubo d'alluminio che innesta, che parte da 46 e ne arriva fino a 10-16, malato, verde da 2 metri. Ma quello Bricoffer, quello lì è un Bricofanda? No, il negozio si chiama Salvatore Salis, che... vende roba per mobili, però queste cose in alluminio, tubi, io non lo sapevo, che c'era un negozietto piccolissimo, cioè assurdo. Molte volte dai posto più impensabile lo trovi. C'è qualcosa da bricome, però è molto leggerino come cosa, come parità. Dove poi ti avevo visto qualcosa? Da quel negozio di cinesi, però sono misure, ne hanno 2 misure, mi sembra. Bello trovarli innestabili, diciamo, in modo che tu puoi fare anche delle antenne, diciamo, di dimensioni particolari, dai. Ok, di nuovo a te, adesso mi stavo facendo il nominativo, no, perché ero poco fa in banda HF, ho fatto l'Australia, sono contento perché è la prima volta che lo faccio, e l'ho fatta con la Mantova, e anche abbastanza bene, arrivavo quasi 9 di rapporto mi ha dato, e io lo stesso ascoltavo più o meno. Ieri sera eravamo un attimino con Claudio, quello di Muros, con quello di Stranamente, avevamo tutti e due, lui 140, io 440, all'inizio poi ho preso il 2000, e io ascoltavo 7, lui non riusciva quasi a tirarmi fuori in banda laterale, lui c'era la Mantova Turbo e io la Mantova 1, non ho mai capito per quale motivo, io lo sentivo bene 5-7 e lui dice ti ascolto a mezzo al QRM 3, detto, ma dove robe, ma qua in 27 oppure nelle vostre, diciamo, nelle vostre bande? No, proprio 27, eravamo 27 un po' più su, dai, 27 400, adesso non mi ricordo, 450, ma sul canale 80 27 805 prova, poi banda laterale 27? 805, canale 80. Ah, cioè, allora con l'altra, scusami. Su, è contento, 27, 800, scusa, ripeti. Gavino, mi ripeti la frequenza? Attenzione, Gavino. Gavino, ci sei? Attenzione, canale 10. Gavino, mi ascolti? Ci sei, Gavino, mi ascolti? Attenzione, canale 10, Gavino. Attenzione, 10. Gavino, ci sei? Avanti che vuole entrare, attenzione al canale 10, Gavino, mi ripeti la frequenza? Ci sei, Gavino? Sezione 10? Davi, avanti su 10. Davi, tu sei? Hola. Chi è avanti? Roberto. Cazzo, ho messo la Davi, ti sto cercando. Ma che frequenza sei? No, ecco, la frequenza, ne ho sentito un pezzo. 27, ti chiamavo, ero blu. 27 805 canale 80 27 805, ma forse stava entrando anche Gianni del Perù. Io sono andato a 27 580, infatti non raggiamente già alla fine sono rientrato qua. 27 805, ecco, dobbiamo andare in LSB. LSB o USB? LSB, o come vuoi tu. Allora fai USB, dai, 27 805, così? Positivo. Ti ho mandato il numero di telefono? Yes. Vediamo se sta conoscendo bene il carrello, dai. Ora, ora, c'è nessuno? Ok, ciao, buonanotte. Questa è la solita mia radio. Ok, sicuramente il segnale è un po' diverso. Ci siamo? Ora, attenzione 10. Yes. Questo è quello di prima, il 45, anche il tuo, questo è il 44. Questo è il 45, come è così in AM? Una mamma potentissima, oppure troppo alto. Provate il processore per curiosità. Aspetta, vabbè che devo un attimino, devo addirittura sollevare appena appena il NAT perché c'è il cardia, perché c'ho... Dovrebbe essere ora, ok, così sono la soffocata normale. Adesso guarda, abbasso un po' la prima, diciamo il mic, mi chiedendo dalla radio, lo porto a metà come sempre, e ti tolgo anche il processore. Adesso sono senza processore, 27075, paratore Gavino al mic senza processore. K450, ora processore inserito, sempre K450. Quanto c'è a livello microfonico? Buongiorno. Prova a passare un peluzzino col processore inserito però. Ora sono alle ore 22, processore inserito, sempre a stessa distanza dal microfono. Allora lascialo così, da parte mia è perfetto. Prima eri forte, però stavi leggermente distorcendo. Così è perfetto, ti sto ascoltando con un altoparlante esterno, per cui ti posso dare anche indicazioni abbastanza credibili. Non ho acceso nessuno strumento per vederti, perché c'è anche gli strumenti, indicatori di livello e analizzatore di spettro, però a orecchio stai andando alla grande. Fammi un passaggio che ti analizzo io adesso con l'analizzatore di spettro. Allora, questo è il canale 10, l'operatore Roberto, la frequenza 27075.00. Vediamo un po' come questa modulazione, come la reputa. Avanti, di nuovo a te. Allora, mi stai andando, allora hai un'onda che va da 280 Hz, sale a meno 25 dB e prosegue lineare fino ai 1000, fine 1008, fine 1008, poi vai un po' a calare perché ovviamente la tua voce non è molto acuta, e a 1008 scende a meno 48, meno 48 dB, e un'onda abbastanza, un'onda abbastanza compatta, e sei sempre sull'area del verde. Questo usiamo un analizzatore rispetto della Soundcraft con la scheda audio Fukutai. E quindi stiamo usando già parecchi di un certo pregio, no? Va bene, l'analizzatore faccio quello della Technics, io quello tutto digitale, che fa, c'ha il generatore di rumore rosa, eccetera eccetera, diciamo, però un apparecchio per uso domestico, non professionale. Sicuramente le indicazioni che mi dai tu sono più veritiere, dai. Comunque funziona anche quello discretamente. Ok, di nuovo riprendi il mic. Sì, positivo, con questi passaggi qua mi hai dato dei picchi anche a 2200 Hz, sempre con a meno 30 dB, con ti dovrei restringere a terra la gamma dei 400, perché tu hai 400 molto accentuati. Sì, è un po' la gamma dei 400 mi dava, perché sto guardando la registrazione del grafico. Sì, 400 li hai molto accentuati tu. Allora, questo è l'MC60, purtroppo non posso intervenire in nessun modo, però c'ho la Dunis, la V908, che adesso in questo momento è collegato in un'altra radio. Quello c'ha quante bande di equalizzazione? 4 bande di equalizzazione. Un giorno che abbiamo 5 minuti di tempo, magari ci andiamo a un canale dove non c'è nessuno, così lo regoliamo insieme, visto che tu c'hai lo strumento. Normalmente le regolazioni io le facevo agli altri. In questo caso mi metterai la tua mano per ricevere. Tevere e fare le prove, perché quello della Lunese è molto molto sensibile al coso, l'equalizzatore ha 4 bande più 12 e meno 12 ed è tutto regolato, basta lo sfiori appena appena quello lì e ti cambia totalmente la modulazione, in modo che riesca anche a cercare di migliorare le prestazioni. Dai. Ok, riprendi a te, Sound Classroom, che modello c'è? Quello lì c'è tipo LED o quale? No, uso un Sound Craft, l'analizzatore del dispetto del mixer di sala, sto usando adesso, ho messo il mixerino, il mixer qua, la fonte, e ti sto copiando proprio tramite le uscite radio, perché posso vedere tramite analizzatore sia il ricevitore sia lì come è questo. E in pratica la tua voce adesso ti ho messo anche una soglia di threshold e la tua voce e la tua modulazione inizia a modulare da meno 98 dB. Da meno 98 dB tu sei già attivo in rete e hai modulazioni a picchi a meno 20 dB, quasi meno 20, meno 19 dB. Quante bande è quell'analizzatore di spettro? Questo qua bande, allora bande ti posso dire che va da 0 a 20.000, da 0 a 20.000 e ha delle curve, diciamo digitali, non ha delle proprie bande come fosse il classico equalizzatore, mi segui? Perché ti dico che avrà un milione di bande. No, allora anche io ho l'uscita, tutti e due gli apparecchi, allora, uno è indicatore di livello digitale a balle fluorescenti, sempre dalla Technics, l'altro è un analizzatore di spettro, sempre dalla Technics, collegato all'uscita in bassa frequenza, la CC2 del 440, sono collegati insieme, questo parte da 25 Hz fino ad arrivare a 16 kHz, anche se non te ne fai niente per il discorso, tanto la larghezza di banda qua in 27 è molto molto più limitata, non siamo in alta fredda, però è abbastanza carino perché mi dà i picchi speciali, sempre balle fluorescenti azzurre, che come coso, come indicatore, spatter sino ai più 12.